Di nuovo insieme dopo le informazioni sulla viabilità sulle strade e autostrade italiane. Stiamo parlando di plastica, di recupero e riciclo della plastica. Gianluca Bertazzoli, responsabile comunicazione del Consorzio Nazionale Corepla. Dicevamo prima, speriamo che i cittadini nel consegnare bicchieri di plastica, piatti di plastica, come adesso si può fare nei contenitori per la plastica o comunque quelli multimateriale, stiano attenti a non buttare dentro anche le ossa di pollo. Ma va lavata la roba o basta essere attenti e non... Noi diciamo sempre, gli imballaggi vanno conferiti vuoti, svuotati, quindi senza residui residui evidenti del contenuto, quindi vanno ben svuotati. Nel caso dei piatti non è sbagliato magari col tavoglio di carta, visto che in genere quando dargli una passatina. La passata, però non lavati, un po' perché sarebbe illogico di lavare le stoviglie monouso usa e getta, e un po' perché anche dal punto di vista ambientale sarebbe uno spreco anche questo, no? Quindi gli imballaggi in genere, in particolare le stoviglie, vanno svuotati, vanno puliti sommariamente. L'importante è che non ci siano gli spaghetti scotti, diciamolo in questi termini. Allora, mi ricordo, a proposito di comunicare questo tipo di informazioni al pubblico, ricordo che ERA aveva fatto addirittura un'application per BlackBerry e per l'iPhone. L'avete ancora in uso, Brandolini? Sì, è in uso. Ha avuto e piace, direi, no, al pubblico. Un positivo da parte del pubblico. Soprattutto di quello diciamo più evoluto dal punto di vista tecnologico, ma tengo anche a sottolineare che utilizziamo tanti altri mezzi di comunicazione anche più tradizionali, a partire dal rapporto con i ragazzi delle scuole dell'obbligo e non solo dell'obbligo, proprio per cercare di veicolare il valore delle risorse naturali, dei materiali e quindi anche delle attività di raccolta differenziata. Certo, perché poi lo sappiamo, attraverso le scuole i ragazzi passa il messaggio molto meglio che attraverso mille altre campagne di comunicazione. Bertazzoli, lei è un esperto, ma direi che è così, insomma. Assolutamente sì, anche quest'anno siamo tornati anche in comunicazione con l'advertising tradizionale, TV, radio, giornali, grandi affissioni, stazioni, aeroporti, ma poi c'è tutto un lavoro che a volte è meno evidente, anche meno diciamo impattante all'occhio così del profano, ma che è un lavoro molto di fino sul territorio, insieme alle aziende e ai comuni, per fare un lavoro di fino di comunicazione, senza poi dimenticare il mondo della scuola, che è una grande miniera, è un grande giacimento di volontà e di saperi. Quindi bisogna muoversi usando strumenti molto diversificati, molto articolati, sapendo che si parla a un pubblico che è estremamente vasto ed estremamente eterogeneo anche nei suoi livelli di preparazione, di percezione del problema. I maggiori successi si raggiungono oggi, direi, con quella fascia dei giovani genitori, diciamola in questi termini, quindi delle famiglie giovani, e le difficoltà maggiori forse sono oggi invece concentrate sui segmenti più marginali, anziani di bassa scolarità che abitano in piccoli centri, ecco lì a volte si fa fatica, ma lì c'è anche un dato oggettivo, cioè spesso e volentieri questa gente ha altri problemi urgenti nel quotidiano. Magari però queste sono le situazioni in cui un gruppo come appunto può essere ERA arriva meglio, magari lavora sul territorio. E noi siamo a disposizione per aiutarli a lavorare sul territorio. Posso aggiungere, sì, prego. È importante anche che un gruppo appunto come ERA dia un ritorno rispetto all'attività che viene svolta, quindi non solo faccia attività di promozione, sensibilizzazione e comunicazione. Sotto questo aspetto, come dire, noi stiamo compiendo, ritengo, uno sforzo notevole, perché annualmente pubblichiamo il bilancio di sostenibilità, quindi che dà conto dei nostri risultati non solo economici ma anche nelle attività di servizio. E da 2 anni a questa parte, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, abbiamo svolto un importante progetto di tracciabilità dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, ovvero rendicontare ai cittadini dove va a finire la loro raccolta differenziata, quanta ne viene effettivamente avviata a riciclo, anche in maniera forse fin troppo pedante, elencando gli impianti dei quali ci avvaliamo. Ma non credo sia pedante, in questo caso è dare fiducia reciproca. Questa operazione è fondamentale. perché proprio perché il cittadino deve sentirsi diciamo sicuro, deve potersi fidare. È una operazione di reciproco affidamento e quindi la trasparenza è la prima, forse il primo requisito. Se si perde quella, se si perde la fiducia, il meccanismo si inceppa. Grazie. Grazie Filippo Brandolini, ricordo presidente di Era Ambiente, società del gruppo Era che è dedicata appunto al trattamento, smaltimento rifiuti. Gianluca Bertazzoli, responsabile della comunicazione di Corepla. Adesso è il momento di cedere il microfono a Maurizio Melis con la sua rubrica Mr. Kilowatt. Parlando di rifiuti, un aspetto cruciale della cosiddetta terza rivoluzione industriale, potremmo definirlo così, è la chiusura dei flussi di materia. Come sappiamo, oggi ci viene chiesto di raccogliere separatamente plastica, vetro e metalli, i quali vengono poi avviati a processi da cui ricaviamo altra plastica, altre lattine, altre bottiglie di vetro. Tuttavia, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani è solo il primo elemento di un'economia che è destinata a mutare profondamente il modo di utilizzare le materie prime. Nell'Italia del pessimismo, degli scarsi investimenti in ricerca e dei cervelli in fuga, ci sono imprese, piccole e grandi, che questa opportunità l'hanno intuita da tempo. La lana prodotta dalle capre sarde, per esempio, non si può filare. È un rifiuto che spesso viene bruciato perché lo smaltimento costa. Tra l'altro, la lana in questione è parecchio restia a bruciare, risultato una combustione molto inquinante. Ma dal racconto di un vecchio pastore, secondo cui questa lana veniva utilizzata per conservare i semi, addirittura come terreno di coltura, emerge una possibilità da cui nasce Edilana. L'azienda riqualifica all'inizio una serie di parchi dove, grazie alla lana caprina, chiamiamola così, nascono coltivazioni di fragole e pomodori con la collaborazione dei cittadini. Dei bambini che alla fine dell'estate raccolgono decine di nidi d'uccello lanciano inconsapevolmente l'idea successiva. Oggi, copiando quello che è risultato essere il nido, diciamo, più performante, quello del pettirosso, Edilana produce i pannelli per l'edilizia carbon free, i pannelli isolanti con le caratteristiche tecniche migliori d'Europa. A Gioia Tauro, paese che purtroppo è noto alle cronache più che altro per fatti malavitosi, un'altra azienda, Ecoplan, è nata da un'idea analoga. Recuperare la sansa esausta, uno scarto della lavorazione delle olive che solo nella piana di Gioia Tauro ammonta a 250.000 tonnellate l'anno. 10 anni di miglioramenti progressivi hanno portato a Ecomat, un materiale che mixa sansa di oliva e scarti della plastica e che permette di realizzare pannelli e piastrelle dotati di una straordinaria resistenza meccanica e agli agenti atmosferici. Ed è un materiale questo riciclabile al 100%. Ci sono altre storie così in Italia e tanti ancora ne restano da costruire. E adesso invece Marco Carminati per Articolo 9, l'altra nostra rubrica dedicata alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico italiano. Buongiorno da Marco Carminati. Abbiamo in collegamento con noi oggi il vicepresidente della Fondazione Enzo Rubi, Carlo Rubi. Buongiorno, dottor Rubi. Buongiorno, dottor Carminati. Ecco, con lei parliamo di un argomento che, diciamo, non si vede ma che c'è. Per esempio, quando siamo andati a visitare la Sacra Sindone, quella lunga fila, quella grande manifestazione, se andiamo a visitare la Basilica di San Francesco, se saliamo al Sacro Monte di Varallo o andiamo a vedere la Basilica del Palladio, non ci accorgiamo, ma c'è ben nascosta un straordinario impianto che protegge queste opere d'arte. Ecco, questi straordinari impianti che ci sono e non si vedono, che sono la quintessenza della tecnologia ma che noi non percepiamo, li realizza da qualche anno una fondazione che è una fondazione milanese, appunto la Fondazione Rubi, di cui Carlo Rubi, che è in collegamento con noi, è il vicepresidente. Allora, vicepresidente, subito le chiedo di raccontarci un attimo che cos'è questa fondazione, da quando opera e che cosa ha cominciato a fare. Sì, la ringrazio. La Fondazione Rubi è un'eccezione, direi, nel panorama della sicurezza, non solo italiano, ma direi in Europa e forse in tutto il mondo, in quanto è l'unica fondazione che ha come obiettivo quello di diffondere la cultura della sicurezza attraverso le tecnologie che oggi sono disponibili. Quindi parliamo di sicurezza intesa come protezione contro gli episodi criminosi e gli atti, sì, di vandalismo, e l'utilizzo delle moderne tecnologie. La fondazione nasce nel nel 2008, inizia a operare nel 2008, ed è una espressione di un'azienda, quindi è una tipica fondazione di impresa. Sì. Per raggiungere questo obiettivo, forse un po' ambizioso, di diffondere e far conoscere quello che sono le tecnologie della sicurezza, la fondazione opera in, diciamo, secondo tre filoni principali di attività. Innanzitutto organizziamo convegni, organizziamo seminari in modo che vengano approfonditi e vengano diffusi queste conoscenze su quello che oggi è possibile ottenere da, sì, da queste apparecchiature. Realizziamo pubblicazioni spesso legate a ricerche che facciamo su quelli che sono i temi della sicurezza, magari della famiglia, ma poi c'è sempre un particolare occhio di riguardo verso il patrimonio culturale. Certo. E poi c'è l'attività, forse quella più appariscente, che rappresenta anche un contributo che noi vogliamo dare al patrimonio del nostro paese, che è il sostegno concreto di progetti nel quale vengono messe in sicurezza e quindi protette con queste tecnologie quelle che sono delle espressioni più o meno importanti del nostro patrimonio culturale. Ecco, quando lei dice sostegno, indica un sostegno fattivo. Parlo proprio di un sostegno concreto, un sostegno economico. La fondazione si assume tutti gli oneri economici per offrire a questi edifici, a queste opere, a questi eventi, come nel caso che lei ha citato della Sacra Sindone, una protezione completa. Avete fatto tantissime cose in pochi anni. Io conosco bene l'attività della vostra fondazione, vi siete occupati di monumenti, di biblioteche, eccetera. Qual è il prossimo passo? Qual è il prossimo bene che avete in animo di proteggere? Ma noi stiamo già, in questo momento siamo attivi sulla protezione di una struttura della Biblioteca Vaticana, sì, a Roma, dove verrà effettuata la digitalizzazione di tutti i manoscritti che lì sono custoditi, sì, quindi parliamo di un qualche cosa che andrà avanti per qualche decennio, immagino, come tempi di lavoro, di digitalizzazione, e noi abbiamo curato e stiamo ultimando adesso la protezione di tutti i locali e gli ambienti dove verrà effettuata questa attività. Lei ha già citato due progetti sul quale siamo attivi in questo momento: il Sacro Monte di Varallo, la Basilica Palladiana. Le posso dire, questa è una informazione un po' in anteprima, abbiamo una notizia. Stiamo deliberando, quindi ancora non c'è l'ufficialità, ma ho piacere di dirlo a lei e agli, sì, ascoltatori, stiamo deliberando due importanti lavori a Bologna, ed è la videosorveglianza della Torre degli Asinelli e della protezione compresa da videosorveglianza del santuario di San Luca. Ecco, che donna, quindi due dei monumenti più significativi, tra l'altro noti in tutta Italia e forse la Torre degli Asinelli anche in tutto il mondo. Grazie, dottor Rubi. La ringrazio, perché è giusto far sapere che in Italia non ci sono solo problemi di mancanza di fondi, eccetera, ci sono anche delle realtà che cercano di operare e magari potrebbero essere, diciamo, di stimolo per altri per darsi da fare in questo settore. Perfetto, grazie. La Fondazione Rubi, sappiamo, è una di queste. Grazie molto. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Una buona giornata. È tutto per questa puntata. Da Laura Bettini grazie per essere stati con noi. Vi ricordo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora.